Giorgio, che piatto consigliamo? Carbonara con le zucchine? Sì. Ok, allora, per la carbonara con le zucchine ci vogliono. Facciamo che lei invita delle persone e sono in quattro, ok? Allora, ci vogliono quattro uova di cui utilizzerà solo il rosso. Ci vogliono due zucchine. Ci vuole un'ottima pasta, noi consigliamo le mezze maniche. E Gli ci vuole. spaghetti. O gli spaghetti perché a Giorgio piace con gli spaghetti. Poi ci vorranno anche le Lenzo. zucchine. Abbiamo. Scusa, ma avevamo ricevuto una telefonata. Dopodiché, quindi ci vorrebbero un mix che a noi piace di parmesan, parmigiano, non so come lo chiamino a Copenaghen, e pecorino romano che sarà facilissimo trovare lì. E secondo me tutto, un po' di pepe, sale, dopodiché si prepara in una ciotola con i rossi, si mette quasi tutto il parmigiano e se fa una bella crema, come dicono a Roma. Si tagliano le zucchine piccolissime, se Adi ha una, si chiama una mezzaluna, comunque piccolissime. Il guanciale, ecco, ce lo stavamo dimenticando, comunque noi lo mettiamo ugualmente. Due pacchettini, quelli da metà della beretta, oppure quello comprato banalmente, o qualcosa di simile, anche lo speck va bene, per esempio speck e zucchine è molto buona come carbonara alternativa, e quindi si fa cuocere lo speck con il guanciale, si fa croccante, e poi alla fine si mette tutto con le zucchine che si è solo passato velocemente nella padella con il grasso del guanciale, velocemente, 3-4 minuti, in modo che rimangano croccanti. A quel punto, quando la pasta è pronta, si aggiungono la pasta, 2-3 cucchiai di cottura nell'intingolo con uova, parmigiano, le zucchine e il guanciale. Quando la pasta è pronta, si scola, si passa tutto quanto e il piatto è pronto. Una spruzzata di formaggio che è avanzato ed è fatta. Come capirai dal fiato, sono in montagna che cammino. Fra poco la ricetta del cavolo nero. Allora, poi per fare la pasta alle polpette al sugo si fa così. Compri le polpette, no? Poi prendi il sugo e il pomodoro, prendi una pasta che vuoi tu, poi fai cuocere le polpette, metti l'acqua, Metti la pasta. poi metti la pasta e poi dopo, quando la pasta è pronta, ci metti, quando La pasta è pronta. devi poi mangiarla e metti il Pomodoro. sugo Sì. al Mezzo pomodoro limpa le e le polpette. polpette. E come si dice in Puglia, vedi che ti mangi.